con Emanuela Piovano per sapere quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2021 e fare anche un po' un bilancio dell'annata cinematografica. Ben trovata! Buongiorno, grazie a voi. Dici ciao tutto. Federico. I miei film sono 6 perché gli ultimi 2 sono a pari merito e ho trovato dei film molto belli quest'anno. Il primo è assolutamente, nonostante abbia da poche ore avuto il Golden Globe, quindi sembra sia scontato, ma è la mia scelta da quando l'ho visto circa un mese fa, è Il potere del cane, The Power of the Dog, film della grandissima Jane Campion, che ricordo a tutti è stata la prima regista donna e forse anche ultima ad avere la vera Palma d'Oro di Cannes con Lezioni di piano. È un film australiano neozelandese tratto da un libro, le classe metà anni 50, ed è un film straordinario di grandissime atmosfere paesaggistiche, un western, ma in realtà è poi anche un giallo, poi in realtà è anche il grande riscatto di un rapporto tra una madre e un figlio, quindi un tema che a me è molto caro e molto molto interessante. Poi il secondo film è assolutamente Tre piani di Nanni Moretti, non solo perché è il film più bello secondo me italiano dell'anno, ma perché è ancora sempre a mio avviso un autore che dopo Marco Bellocchio secondo me viene Nanni Moretti, cioè è l'unico che ha una capacità di analizzare la società italiana, di utilizzare il cinema come metafora delle nostre relazioni e non si perde mai né in manierismi né in birignao né in tentativi di conquistare mercati eccetera, e così è anche vincente perché il pubblico a cui io appartengo, quella grande comunità di persone che vanno al cinema anche sì per divertirsi, per rilassarsi, ma soprattutto anche per capirci qualcosa un po' di più del senso del nostro stare al mondo, ecco, è ancora sempre un faro nella nebbia. Quindi a me Tre piani, anche se non è un film morettiano in senso stretto, è piaciuto moltissimo. E poi comunque è un film importante, un film costruito in un modo egregio e nel panorama italiano secondo me si staglia parecchi piani sopra la terra, ecco. Poi il terzo film è un film particolarissimo e che ha avuto anche un discreto successo per il periodo in cui è uscito a settembre e ha fatto 18.000 presenze, quindi tutto sommato la media dei film usciti quest'anno è molto bassa, ed è un film spagnolo di una regista donna di nuovo che si chiama Isair Bollain, è un'attrice, una produttrice, ha fatto 3 o 4 film molto interessanti che non sono mai usciti in Italia e adesso finalmente quest'anno è uscito questo film di Ubu che è La nozze di Rosa, di Rossa alla spagnola, perché anche nel bellissimo doppiaggio non si perde lo spagnoleggiare della pronuncia dei nomi eccetera, è comunque Il matrimonio di Rosa di Ubu, è un film delizioso dove si racconta di una donna alla ricerca di se stessa, una donna oberata dalla famiglia, dai figli, dai mariti, dai fidanzati, che decide improvvisamente di fare un colpo di scena e quindi parte per riprovare le sue origini. Insomma, un bellissimo film che si trova anche adesso sulle piattaforme in giro. Al quarto posto ho messo The Father, Nulla è come sempre, di Florian Zeller, un regista classe 1979, un film inglese, nonostante Zeller sia un drammaturgo e scrittore francese, perché la grande trovata di questo film è lui ha trovato Anthony Hopkins che ha accettato di interpretare il protagonista, ed è un film straordinario, ma la cosa più straordinaria è che io avevo già visto all'epoca, sempre tratto dalla pièce di Zeller, Florida, non so se ve lo ricordate, nel 2015-2016, questo film francese con Jean Rochefort e Sandrine Kimberlain, una commedia che all'epoca aveva sempre fatto più o meno gli stessi spettatori che fa oggi il remake dello stesso autore e che però all'epoca era considerato un flop, in realtà poi una teoria che se volete poi vi dico, ma comunque la cosa divertente è che il produttore, disperato per l'esito comunque anche in Francia negativo della commedia tratta da Zeller, ha accettato che lo stesso autore facesse una sua versione del film, ricordiamo il regista di Florida era Philippe Le Guay. Invece Zeller, che è il drammaturgo scrittore, convince convince il produttore a dargli una seconda opportunità con questa pièce. È una pièce dove c'è un anziano padre affetto da Alzheimer che progressivamente perde la sua memoria. E il produttore gli dà questa seconda possibilità, trovano questo Anthony Hopkins e fanno questo capolavoro di film straordinario che avrà anche un successo molto importante. In Italia esce appunto a maggio del 2021 e fa 213.000 presenze, che è più o meno quello che aveva fatto Florida, però ripeto, il fatto che faccia 213.000 presenze durante il Covid è un successo. Il fatto che lo facesse nel 2015, la versione di Philippe Berger, era un flop. Veniamo infine ai due film al quinto posto, che ritengo exequo, che sono di due giovani, Filippo Meneghetti del 1980 e Harry McQueen del 1987, un film francese, un film inglese, a tematica gay, ma dove non assolutamente non c'entra niente il gay, ma c'entra veramente la ricerca degli individui nella società occidentale di avere relazioni civili evolute e profonde, che sono Due di Filippo Meneghetti e Supernova di Harry McQueen. Sono tra l'altro, così come The Father è il remake tratto dalla stessa pièce di Zeller, Supernova paradossalmente non si sa per quali coincidenze è praticamente lo stesso tema dell'ultimo film di Virzì con Helen Mirren, dove vediamo questa coppia di anziani girare con il camper. Ecco, qua è una coppia straordinariamente interpretata da Colin Firth e Stanley Tucci, no? Straordinariamente interpretata, e anche qua è una lezione di cinema, perché a mio avviso, nonostante avessi anche apprezzato il film di Virzì, come sempre, non so, questo non prendersi sul serio, invece è questo film di questo giovanissimo autore, già anche attore, che è questo McQueen. Il film invece raggiunge delle intensità e delle autenticità veramente straordinarie, straordinarie. E infine appunto questo Due di Filippo Meneghetti, che ahimè anche lui ha fatto 14.000 presenze, però calcoliamo che è uscito il 6 agosto e quindi 75.000 euro di incasso il 6 agosto è un successo se lo vediamo tra l'altro nel novero di tutti i film d'autore dello stesso livello, anche usciti in periodi non di crisi. Questo in genere è l'incasso. Però la cosa straordinaria anche di questo Due, con una meravigliosa Barbara Sukowa, queste due donne che hanno sempre vissuto sullo stesso pianerottolo amandosi in segreto e che poi improvvisamente, in seguito a un ictus, una delle due devono dichiarare la loro relazione ai figli, che vanno completamente in crisi. Ed è un film bellissimo perché se lui è un regista tra l'altro italiano che va in Francia perché qua non riesce a trovare lavoro e fa questo film meraviglioso, di nuovo un film compatto, un film pieno di intensità, di autenticità, nello stesso tempo semplice, con una storia molto lineare. Insomma, è un bellissimo film e tra l'altro ha rappresentato la Francia agli Oscar l'anno scorso, e quindi insomma questa è la mia classifica. Rispetto all'annata in generale, che dici? La mia impressione è che ci sia stato più spazio per i film di qualità, perché sono gli unici che comunque vengono presi e distribuiti senza un calcolo di marketing preciso, ma veramente sull'onda di passioni o di ineluttabilità, no? Per cui si dice, ma questo film non è che non lo puoi fare uscire. Invece le majors hanno un po' ritirato e sospeso tutti i lavori, altri più furbi li hanno dati alle piattaforme in contemporanea, eccetera. In realtà le sale, quando poi hanno riaperto, man mano avevano bisogno di prodotti che non seguivano più una logica, come al solito, di bumping. Sappiamo che tutti i mercati, adesso non voglio fare una questione molto radicale su questo punto, io rappresento anche la società degli autori, abbiamo sempre delle grosse discussioni, no, su questo fatto, il libro mercato, non il libro mercato, seguire l'esempio francese, seguire l'esempio inglese, non voglio addentrarmi in queste cose, però è sicuramente vero che in qualsiasi mercato ci sono i più forti che la fanno un po' da padrone, e quindi obbligando le ultime pedine della filiera a fare quello che vogliono loro. Ecco, la pandemia ha invece improvvisamente aperto degli spazi, perché siccome questi padroni, diciamo, sono un po' fermati, tirati indietro, ecco che improvvisamente il mercato è stato molto vivace. Quindi se noi vediamo, ci sono state delle grandi sorprese di film che altrimenti avrebbero avuto uno spazio molto più limitato. Quindi io penso che si potrebbe poi ricavare trarre una lezione da questa cosa, che bisognerebbe poi chiedere alle sale, chiedere al pubblico se è stato anche più soddisfatto oppure no, e poi capire se finalmente si sono poste le basi perché questi film, che normalmente sono sistematicamente invisibili, se possono veramente ampliare il loro bacino. Allora, la mia idea è che il loro bacino di utenza sia sempre lo stesso, quindi in realtà questi film fanno quelle 50.000, 60.000, 70.000 spettatori, sia in tempo di crisi che in tempo non di crisi. Adesso si sono visti, perché spesso fanno poi anche proprio 10.000 spettatori, 5.000, quindi che ne facciano 50.000 è già un successo. Si sono aperti degli spazi, si sono aperte delle sale, in realtà se ne sono chiuse molte, ma se ne sono anche aperte le altre, che finalmente sceglievano il prodotto che c'era e non rispondevano a delle logiche invece obbligate di fidelizzazione. Ti ringrazio per questo stimolo che mi dai ad approfondire anche l'analisi. Sarebbe anche un'analisi da sviluppare e da portare avanti, se è vera questa mia ipotesi, per esempio, e quindi magari la faccio anche perché ci serve anche come bussola, no? Però ecco, io tante sale che prima avevo più difficoltà a raggiungere, adesso improvvisamente ci telefonano, hanno tutti imparato a telefonarci e a scriverci e a dire: senti, ma mi dai quel film? Anche questa è una cosa straordinaria. Prima era più difficile, prima della pandemia c'erano le agenzie, abbiamo sempre avuto un rapporto molto buono con le agenzie, però facevano veramente una sorta di blocco, nel bene e nel male, cioè gli affidavi il bambino e poi speravi che le cose andassero. Adesso anche le agenzie non sanno che pesci pigliare, quindi insomma è un casino molto creativo, secondo me. Ci troviamo un po' la nostra idea, appunto, anche di autore in questo momento, forse anche un po' presuntuosa, ma l'idea di trovarci un po' davvero fuori le mura, no? Come a San Paolo, dove si giravano i film del neorealismo, e quando c'era ancora la guerra, la città occupata, che non si capiva cosa sarebbe successo. Ecco, c'è questa sorta anche un po' di euforia. Ecco, Naomi Kawase, per fare un esempio, per chiudere col film che noi dobbiamo distribuire, ma anche gli altri due film che abbiamo distribuito nel 2021, che erano appunto Io, lui, lei e l'asino, Antoinette dans les Cévennes di Caroline Vignal, e Passion Simple, il capolavoro di Daniel Arnaud, per la regia di Daniel Ardid, stati due film che qualche anno fa, o in tempi di non pandemia, sarebbe stato difficilissimo anche solo fare accettare. Invece adesso ti faccio l'esempio del film di Caroline Vignal. Il film di Caroline Vignal, che è un film che ha avuto uno straordinario successo in tutto il mondo, ivi compreso in Italia, per i nostri livelli e per essere il Covid, ha fatto parecchie presenze, è stato distribuito credo in 70-80 sale. Allora, Caroline Vignal è una regista francese che da 20 anni non ha fatto solo un film, quando era uscita dalla Femis, poi ha fatto Una figlia, se l'è venuta a levare, e poi ha fatto un altro film adesso, tratto da Stevenson tra l'altro, che viaggia nelle Seven con l'asino, no? E quando il produttore l'ha presentato in Rendezvous, pare che tutti gli abbiano dato una pacca sulla spalla dicendo: vabbè, poverina, hai fatto questo film. Poi il Covid improvvisamente Alain Toubanat ha visto questo film, che è pieno di paesaggi, di aria che si respira, di ottimismo ma anche di poesia, ha detto: ma cavoli, ma dateci questo film che abbiamo bisogno di respirare. E quindi c'è stato un passaparola pazzesco e questo film è esploso, per dire, no? Senza nessun tipo di calcolo o anche di aspettativa. Un film fatto col cuore, molto particolare, è uno Stevenson al femminile, di questa ragazza che parte con quest'asino per seguire l'amante che l'ha mollata, per fare questo trekking nelle Cévennes. E quindi ecco, per me è stato un anno mirabile, cioè è stato veramente una lezione anche di trekking, no? Cioè, come trovare delle nuove piste da battere e improvvisamente essere nella giungla, dove siamo da anni, perché il cinema indipendente, il lavoro che facciamo noi è da anni un lavoro di assoluti esploratori nella giungla, e improvvisamente una radura. Poi c'è detto che c'è stata una guerra, c'è stato un casino, quindi ci sono cadute le piante, non lo so adesso, però voglio dire, la radura c'è stata. Bene, Emanuela, allora ci sentiremo nel corso dell'anno, ancora sì. Auguri e a presto. Grazie Federico, buon lavoro a voi e grazie per gli stimoli sempre che ci date.